prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento con la Caritas di Padova. Questa settimana siamo nel vicariato di Viganovo e ringraziamo Agostina Cantoni e Gianluca Racas che ci hanno inviato la relazione, il racconto del loro ultimo incontro, in particolare quello per le Caritas delle parrocchie di Fossò e di San Don. L'incontro che si è svolto nel centro parrocchiale di Fossò con il gruppo dei volontari appunto della Caritas delle due parrocchie, in un clima che viene definito cordiale e informale, che ha dato modo di parlare in modo schietto e sincero. Da subito sono emersi problemi che più rattristano questo gruppo: si sentono infatti scollegati rispetto alle altre Caritas vicariali e si sono separati dal precedente gruppo Caritas, che è divenuto Cooperativa Speranza, per problemi di chiarezza e trasparenza nella gestione. In parrocchia così è nato il centro di ascolto, aperto tutti i mercoledì dalle 17 alle 18. Si fa ascolto, come appunto abbiamo già raccontato in altri centri vicariali, e quando necessario vengono pagate bollette o altro, chiedendo i soldi a Don Claudio. Sono ancora in fase sperimentale. Per loro iniziativa hanno partecipato a Boyon ad un corso di formazione ed un altro corso a Rivale con Don Trincanato. I volontari sono sostenuti dai rispettivi sacerdoti, il già citato Don Claudio per Fossò e Don Angelo per San Don, nel tentativo di unire le forze e superare i vari campanilismi. Rimane ancora tanto da fare, ma hanno fiducia e cercano di sensibilizzare la gente sulle varie problematiche relative alla povertà, in particolare durante alcune celebrazioni delle messe domenicali. Ma si rendono conto che la strada è lunga e ci vuole più continuità nelle animazioni. C'è stata anche l'iniziativa di esporre in chiesa il libro del bene che c'è tra noi, ma non ha riscosso molto interesse. A San Don ci sono molte famiglie sole che sono poco aiutate, se non dalle volontarie Caritas che le sostengono, in particolare con famiglie italiane, con anziani soli o problemi di disoccupazione, malattie e altro. Portano una parola di conforto e aiuto materiale quando possibile, riferiscono che hanno timore a prendere l'iniziativa, ma la fatica e la paura non le scoraggiano e continuano il loro servizio con gioia. Ho trovato, dice appunto la referente vicariale, persone buone, motivate, nonostante le difficoltà. Ci siamo lasciati augurandoci di vedere nascere ben presto il centro di ascolto vicariale di Viganovo, perché nessuna realtà caritativa si senta isolata, ma trovi supporto, aiuto, coraggio e tanto altro. Questa appunto la sintesi che ci è stata inviata da Agostina Cantoni per quanto riguarda l'incontro delle Caritas parrocchiali di Fossò e di San Don. Hanno presenti Ondina, Otello, Gigliola, Roberto, Roberta, Adriana e Maria, appunto operatori delle Caritas. Dunque non è tutto rose e fiori, anzi le difficoltà, come abbiamo sentito, ci sono, ma c'è anche tanta buona volontà nonostante i problemi che si possono verificare. Un aggiornamento in questa puntata lo facciamo anche sugli interventi della Caritas per quanto riguarda il terremoto in Nepal. Ormai le cronache se ne sono già ampiamente dimenticate. Era appena il 25 aprile scorso, 8.000 le vittime accertate, più di 8.000 e più di 20.000 i feriti. C'è stato il sisma di magnitudo 7.9 del 25 aprile, poi un'altra fortissima scossa il 12 maggio, che ha provocato solo questa decine di vittime e più di 2.000 feriti. Come sapete, la Caritas si è attivata da subito, dopo le ore, dopo la scossa, per raggiungere alcune delle zone più colpite. Finora la rete Caritas internazionale ha raggiunto 105.000 persone con interventi per 10 milioni di euro, fornendo un riparo di base, rifornimenti di cibo e acqua, nonché materiale per l'igiene. Il programma prevede di sostenere entro questo mese di giugno altre 175.000 persone con un kit per rifugio, acqua e igiene necessari, in modo particolare negli 8 distretti che sono stati più colpiti dal terremoto. Ricordate che qualche domenica fa, il 17 maggio, si è svolta una colletta nazionale per iniziativa della CEI e della Caritas italiana, un segno concreto della solidarietà di tutti i credenti. Però l'invito di Caritas italiana e a tutte le Caritas diocesane è proseguire nell'impegno di sensibilizzazione. La preoccupazione principale è l'arrivo dei monsoni, la stagione appunto che inizia col mese di giugno. I monsoni e le grandi grandi piogge e l'impegno della Caritas mira a mettere a disposizione dei ripari adeguati in tempo utile per fornire assistenza durante proprio la stagione delle piogge. Giuseppe Pedron, che è operatore della Caritas italiana, ha visitato le zone colpite, definisce impressionante sia l'entità del disastro e la distruzione, sia il pensare al lungo periodo che sarà segnato dalla mancanza di lavoro e di sicurezza. Ma dice è altrettanto sorprendente vedere la capacità di reazione di questo popolo. E dunque, con l'invito ancora a donare quello che è possibile tramite le reti e gli sportelli Caritas anche alla causale terremoto Nepal, noi ci salutiamo e ci ritroviamo con la nostra rubrica sulla Caritas puntualmente fra 7 giorni. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.